serpente, perdonate l'ardire, qui ritrovai l'uscio aperto e l'entrare. Se volete, il padrone sta da quell'altra parte. Andate, andate. Così mi dispiaciate. Eppur, carina, io scolpite vi tengo in mezzo al becco. Cinque volte l'ho detto.